Abbiamo un giovane contrabbassista bravissimo della Danimarca, e cioè Thomas Fonnesberg, che rinnova la grande tradizione dei contrabbassisti danesi. E quindi ecco voi Enrico Pierannunzi. Thank you. Bravi. Bravi. Thank you. Sì, ma è bravissimo. Salve, mentre lui è Thomas von Esbeck, dalla lontana Danimarca, ad Anagni. Io invece sono Enrico Pierannunzi, dalla vicina Roma ad Anagni. Buonasera. Grazie. Questo duo ha una storia già abbastanza consistente, abbiamo fatto 4 dischi insieme. 2 in duo, 2 in trio, e suoniamo spesso, e per me è un piacere essere qui. Ho raccontato un po' di cose storiche a Thomas, ma non è semplice, la città dei papi, tutte queste cose sono un po' lontane, però per fortuna la musica avvicina, ci avvicina e ci avvicina a voi. Abbiamo fatto vari brani originali, adesso invece Thomas inizierà da solo un brano, uno standard, e poi io lo raggiungerò presto. Grazie. Thank you. Thomas Fonnesbeck, contrabbasso, Enrico Benalisi piano, grazie, era una versione un po' fantasiosa di My Funny Valentine. E ci abbiamo alla conclusione con un brano vagamente felliniano che si intitola Blue Walls. Grazie. Thank you. Molte grazie, Thomas Honesberg, contrabbasso, Enrico Pierannunzi, pianoforte, grazie veramente e a presto, buon proseguimento e cari saluti a tutti, arrivederci.